è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18:37, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la Zanzara at radio24.it. andiamo subito a sentire il TG2. Sono stati domati quasi tutti gli incendi in Sardegna, ma l'allarme rimane alto. Vento e caldo torrido possono riaccendere i focolai, gravissimi danni, fiamme anche in Corsica, vittime in Spagna. Oggi temperature africane quasi ovunque in Italia, ma già da domenica è previsto l'arrivo di un po' di fresco, prima al nord e poi al centro, e qualche pioggia. Traffico intenso sulle strade per le vacanze. Natasha Kampusz, la ragazza austriaca che aveva vissuto per 8 anni segregata da un maniaco in una cantina, è tornata a vivere nella casa degli orrori dopo averla comperata, e non mancano le polemiche. Ai mondiali di nuoto di Roma, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno conquistato una storica medaglia d'argento nel trampolino 3 metri sincronizzato, battute solo dalle fortissime cinesi. Subito studio aperto, Italia 1. La Sardegna continua a bruciare, si aprono nuovi fronti di fuoco, mentre riprendono vigore anche i roghi che sembravano domati. La situazione è più difficile in provincia di Oristano, dove sono stati evacuati 2 paesi. Paura tra i turisti, gli isolani esasperati chiedono fermate i piromani. È caldo record, si sfiorano i 40 gradi, temperature alte, afa soffocano le città, pronti i piani di emergenza contro l'ondata di calore. Nel weekend la situazione migliora, ma intanto tutti in viaggio verso il mare, scatta il primo esodo. Gli Atenei migliori saranno premiati. Il Consiglio dei Ministri approva la riforma Gelmini che prevede maggiori fondi a chi spreca di meno. Stilata la classifica degli istituti virtuosi, in testa Trento e Torino. In corso alla Camera il voto di fiducia sul decreto anticrisi. Rischia una condanna a soli 30 mesi di carcere l'automobilista che ubriaco travolse una comitiva a Cesano Maderno. Così ammazzano mio padre una seconda volta, dice la figlia di una delle vittime. Roma dedica una strada ai fidanzatini uccisi da un pirata. Piacere alle donne, ma come si fa? Ho sentito tante campane su quello che può aver fatto, può non aver fatto, può aver detto, non aver detto il presidente Berlusconi. Ma non ho ancora sentito un cattolico, e io mi reputo tale, che abbia evidenziato che comunque il suo non essere santo si configura chiaramente come un peccato capitale. Comandamento: non deciderà la donna d'altro. Quindi anche se Berlusconi guarda qualcuno e la decide, è un peccato. È immorale, bisogna toglierlo. Piacere alle donne. Sono 2 telefonate che mi sono arrivate alla segreteria telefonica, di cui vi ricordo il numero 828 12 12. 828 12 12, da non confondere col numero principale che è 824 00 24, e che pongono il problema di Berlusconi seduttore nello stesso tempo cattolico. Un problema secondo me abbastanza inesistente, almeno come lo pongono questi due ascoltatori. Sempre su questo tema, e poi basta, ve lo prometto, e poi basta. Sgarbi di ieri sera ad Iceberg, sentite. Una che sta con te non perché è attratta, ma perché la paghi, toglie qualunque piacere di seduzione. Sì. E il Premier, che è un seduttore, non poteva sapere che era pagata questa, perché altrimenti lui pensa: vengono da me perché sono Berlusconi. Ti faccio vedere il filmino con Bush, ti faccio vedere il filmino con Obama. Lui è contento, sì, pensa di eccitarle, sì, e invece queste sono pagate. Questa è una cosa molto triste. Cioè, molto smontano il suo ego, sta dicendo. Certo, questa cosa qua sicuramente non lo sapeva. Sgarbi dunque è sicuro che Berlusconi non sapesse che era da dare una prostituta, perché altrimenti avrebbe smontato tutto il suo ego. C'è una cosa molto hard di Sgarbi che non so se mandarvi, però mi dovete seguire fino alla fine, questa sera fino alle 20:45, perché se la mando in una fascia oraria più avanzata, dove speriamo di non avere minorenni al nostro ascolto. Un racconto di vita personale, di vita sessuale di Sgarbi ieri sera ad Iceberg, secondo me eccezionale, perché Sgarbi è un grande raccontatore, a prescindere dal fatto che le cose siano vere o false, e però piuttosto pesante dal punto di vista, come dire, sessuale. 800 24 00 24, come si fa l'opposizione? L'Italia dei Valori ha scelto e sceglie spesso strade temerarie, molto corrosive, in alcuni casi direi anche eccessive. Il senatore Pedica oggi, che non è nuovo a queste cose, perché ha arringato per esempio quelli dell'Alitalia, andava a fare il tribuno insieme ai precari dell'Alitalia, poi ha accusato i radicali alla Camera di essere andati a trovare quei due romeni in carcere, ricordate? Poi si è scoperto che erano innocenti quei due romeni arrestati per la vicenda di Guidonia. Ebbene, il senatore Pedica oggi si è presentato durante la conferenza stampa del ministro Gelmini sulla riforma dell'università, interrompendo questa conferenza stampa perché voleva sapere qualcosa sul commissariamento del comune di Fondi in odore di camorra, in odore di criminalità. Cosa c'entrasse col ministro Gelmini ancora bisogna scoprirlo. Senatore Pedica in azione. Allora, questa mattina siamo qui anche per illustrare un provvedimento che è stato presentato in Consiglio dei Ministri. Io non sono tenuta a rispondere a lei, esprimo la mia posizione in Consiglio dei Ministri. Guardi, non è un pubblico ministero, non è un magistrato, è un parlamentare semplice, quindi francamente... Bene, grazie. L'Italia dei Valori è sempre una forza molto democratica. Complimenti. Il ministro Gelmini, lo scioglimento del comune di Fondi, lo scioglimento dei comuni in odore di camorra, in odore di criminalità, è certamente una cosa molto molto importante. Però cosa c'entra? Cosa c'entra interrompere una conferenza stampa del ministro Gelmini sulla presentazione della riforma universitaria? I misteri dell'Italia dei Valori, ma evidentemente il senatore Pedica ha raggiunto il suo obiettivo, perché si parla oggi anche di questa questione, e l'obiettivo forse era questo: far tornare ad attualità la vicenda dello scioglimento del comune di Fondi. Lo scioglimento del comune di Fondi, dove andiamo? Andiamo a sentire un personaggio che, anzi no, il sindaco Moratti. Perché il sindaco Moratti? Perché ieri, nei giorni scorsi, ci eravamo dimenticati di una cosa, di una cifra che aveva diffuso, quella del 34%. 34% di ragazzi di 11 anni o minori di 16 anni che fanno abuso di alcol a Milano. Dove abbia trovato questa cifra il ministro Moratti non si capisce. Comunque questa cifra non corrisponde di certo a una realtà di emergenza. Sentite il ministro. A Milano il 34% dei ragazzi undicenni ha avuto esperienze di abuso proprio di alcol. Allora, ministro, non era ministro, naturalmente è stato ministro, il sindaco di Milano, 34% di ragazzi di 11 anni a Milano che fa abuso di alcol. Ripeto, questa notizia non è supportata da alcun dato statistico, e le riforme, i provvedimenti si introducono anche quando ci sono dei dati di emergenza alcol in un comune. Con Fabrizio Rondolino, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Voglio sottoporre questa sera agli ascoltatori un piccolo gioco. Vista la debolezza oggettiva dell'opposizione e dei suoi consensi, della possibilità di incidere, diciamo, nel dibattito quotidiano e nell'azione di governo, qual è oggi, da chi è impersonata oggi la vera opposizione in Italia? Allora, possibilità numero uno, Gianfranco Fini, che qualche volta, insomma, si intromette, no, anche nel dibattito parlamentare con qualche efficacia. Possibilità numero due, Giorgio Napolitano, che ha un grandissimo consenso, molto superiore anche a quello di Berlusconi, si legge dai sondaggi. Ezio, il bis, il ticket, direi. Ezio Mauro, Patrizia Daddario. Bella questa, Rondonio. Ticket, Ezio Mauro, Patrizia Daddario. Beh, insomma, è un ticket. Vedo che abbiamo voglia di scherzare. Assolutamente. Poi ci sono altri due protagonisti minori che, insomma, turbano la vita del Presidente del Consiglio ogni tanto. Raffaele Lombardo, con questo partito del Sud, e Draghi, governatore di Banca Italia. Ma mi sembra, insomma, in secondo piano. Lei aggiungerebbe qualcun altro? Insomma, se dobbiamo sfidare Berlusconi, io aggiungerei Murdoch alla lista, perché... Ah, Murdoch, certo. A brigante e mezzo. Murdoch, sì, certo. Senza offese per nessuno, naturalmente. Cioè, in questo momento, dice lei, Berlusconi è molto preoccupato dalle questioni, è anche preoccupato dalle questioni televisive, dunque da Murdoch, no? Beh, poi la sinistra, come lei sa, ha sempre avuto una dimensione internazionalista, no, della politica, dunque... un imperatore multimediale internazionale, un leader perfetto. Senta, ma il ticket Ezio Mauro Patrizia Daddario mette davvero paura a Berlusconi oppure no? Ma io devo dire, ho cambiato opinione su questa vicenda, perché all'inizio pensavo che fosse giusto insistere anche in modo, come dire, anche in modo pesante per innescare in qualche modo una reazione morale. Adesso non vorrei essere equivocato, no? Non moralistica, però morale in senso lato, civica, civile, ecco. Poi invece nel corso del tempo non è stato così, in parte perché il controllo dei media effettivamente ha giocato un ruolo pesante in questo caso, e in parte perché poi gli italiani evidentemente hanno altro cui pensare, diciamo la verità. Per cui quando Berlusconi se ne esce con "io non sono un santo", dice una battuta che in qualche modo seppellisce 3 mesi di Ezio Mauro, Noemi, D'Addario, ma non perché loro poi non bisogna distinguere naturalmente la direttore di Repubblica certo. E la Esco, insomma, non perché Repubblica aveva sbagliato a fare questa campagna, ma perché bisogna riconoscere che questa campagna è fallita. E nel senso che non ha ottenuto quello che credo fosse l'obiettivo, cioè un movimento dell'opinione pubblica, ecco. Secondo me è fallita anche perché, o sta fallendo o fallirà, non lo so. Per esempio, restiamo alle ultime cose, alle registrazioni pubblicate dal gruppo L'Espresso. Io oggettivamente, per carità, per me ogni giornale può fare la sua campagna, Repubblica fa bene per quello che la riguarda fare questa campagna, non discuto questo, però le abitudini sessuali del Presidente del Consiglio dentro la camera da letto con chiunque, fosse questa persona una escort, lo sa, non mi interessa, non è questo. E perché pubblicare quelle robe lì? Che importanza hanno? Non aggiungono nulla, o sbaglio? Beh, intendiamoci, in una battaglia politico-giornalistica aggiungono, infangano un'immagine, no? Contribuiscono a appannare un'immagine, tanto più che si tratta dell'immagine di un'immagine molto diversa, cioè un uomo, un padre di famiglia, non dico un marito fedele, ma fino a qualche anno fa sì, amico di Santa Romana Chiesa, e poi viene. Non sto giustificando la cosa, non devo dire che queste ultimissime hanno dato un po' fastidio anche a me. Se io distingo tra una campagna e pubblicare delle cose che hanno una rilevanza anche dal punto di vista della notizia e dell'evoluzione di una vicenda e di una campagna giornalistica come quella di Repubblica, e dunque rafforzano questa campagna, e invece la pubblicazione di registrazioni che oggettivamente servono solo a smuovere una certa curiosità morbosa e null'altro, o sbaglio? Questo è il punto, però riguarda le ultime, non sto parlando in generale di questa campagna giornalistica. Sì, intendiamoci, se prendiamo ad esempio gli Stati Uniti, effettivamente lì succedono anche queste cosacce, nel senso che alle volte, tra l'altro proprio su temi sessuali, ci sono resoconti imbarazzanti, è capitato al Presidente, ma capita molto più spesso ai governatori, ai congressmen, ai senatori. Dunque, là però, negli Stati Uniti però, c'è anche un sistema di contrappesi, come dire, c'è una classe politica anche che risponde di più, sì, questo è vero. Più indipendente, quindi effettivamente non è paragonabile. In Italia sa molto di pettegolezzo, quello sì. Allora, vogliamo sentire, vorrei un parere da Rondolino anche sulla vicenda che sta facendo discutere molti nostri ascoltatori, che è quella della Moratti. Allora, Sgarbi ieri sera ad Iceberg sulla vicenda, come sapete, dell'alcol. Facciamo un brindisi di ricompenso. Lo spumante, proibito lo spumante, non compiono più gli anni, porca puttana. A 15 anni non puoi bere lo spumante, ma non rompe il cazzo la Moratti. Ma non rompe i coglioni. E poi Sgarbi condisce naturalmente l'opposizione alla Moratti a questa, col suo linguaggio. Io sto facendo una piccolissima campagna contro questo provvedimento, che mi pare assolutamente insensato, e sono stato rafforzato da questo mio convincimento dal fatto che la Moratti nei giorni scorsi ha fornito una cifra che è completamente fuori da ogni logica. Sostiene la Moratti che il 34% dei ragazzini milanesi di 11 anni abusa di alcol. Molti economisti di 11 anni. Abusa di alcol. Questa è stata la motivazione principale. Ce l'abbiamo in audio, l'ha detta ieri o l'altro ieri. Alcuni economisti, anche della Voce, si sono scervellati per cercare di ritrovare questo dato. È un dato che non esiste, perché il 34% è un dato che forse la Moratti prende da un'indagine all'Istituto Superiore di Sanità, che parla di ragazzini a rischio alcol solamente di fronte alla domanda: quanti di voi hanno bevuto un bicchiere di vino a settimana o all'anno, non ricordo, esce fuori la cifra del 34%, cioè è una cifra totalmente sballata che non esiste, insomma. E questo è il punto. Poi si prendono i provvedimenti, spesso i politici prendono provvedimenti in Italia senza avere di fronte, no, dati reali e cifre reali, o sbaglio? Beh, nel caso della Moratti, se posso dire, c'è anche proprio un problema culturale di fondo, perché la Moratti può sempre uno dei più grandi sponsor di San Patrignano. Ora adesso non voglio aprire il tema San Patrignano del proibizionismo e dell'antiproibizionismo, però sì. Esatto, c'è, cioè, il grande discrimine questo qua di fronte a queste emergenze, perché ci sono, nessuno dice che non esistano. Come si risponde? Con divieti, carcere, perquisizioni, multe, oppure invece con l'antiproibizionismo, che vuol dire educazione alla responsabilità individuale, alla conoscenza anche alla conoscenza dei diversi tipi di alcolici, anche in questo è un problema che ciascuno di noi affronta in casa. No, perché io ho degli 11 anni, perché le mie figlie sono più grandi, una ne ha 15, quasi 16, l'altra ne ha 20. Però noi siamo sempre stati antiproibizionisti, nel senso che il vino e il whisky in casa ci sono, dopodiché imparate a usarlo, no? E sappiate che a una certa età fa male, da una certa età è quando uno lo beve, poi dopo non deve andare in motorino, eccetera, eccetera. Insomma, sono cose, anche perché poi, voglio dire, lo vietiamo a 16 anni, poi a 16 anni e un giorno, questi cosa fanno? Come in Svezia, si comprano un autobot di qualcosa e se ne iniettano, perché poi così succede, no? Assolutamente sì, in quei paesi assolutamente sì, tant'è che il proibizionismo in alcuni paesi certamente non ha fatto diminuire l'alcolismo, insomma, su questo non c'è dubbio. Grazie a Fabrizio Dandolino, buona serata. Grazie. 18.55, andiamo a Siena da Francesco, buonasera. Buonasera Cruciani, faccio riferimento all'uscita del parlamentare dell'Italia dei Valori alla conferenza stampa della Gelmini. Ora, visto che hanno guadagnato consenso all'ultima tornata elettorale, adesso fossi in loro, adotterei sì sempre una linea critica nei confronti del governo, per rispetto se non altro di chi li vota, ma con una strategia di comunicazione radicalmente diversa. Cioè, la prossima mossa qual è? Manca solo che strappino il microfono ai giornalisti del TG1 davanti a Palazzo Chigi per dire al mondo che Berlusconi è un mafioso corruttore. Ma quella di interrompere anche le conferenze stampa è una mossa da Paolini della TV, eh? Oh, Paolini, anch'io ci ho pensato. Paolini, Di Pietro e di pietristi come Paolini, non è del tutto sbagliato. Ma ecco i temi della maturità. Scusate. Scusa. Allora, c'è stata come al solito un'interruzione. Qui alle mie spalle ovviamente il Quirinale. Salve, sono Paolini. Per cortesia. È un messaggio. Vabbè. Per cortesia, sto parlando. Francesco, sì. Il paragone è giusto, è questo. È il nuovo stratega della comunicazione dell'ITV. Assolutamente. Pedica, lo avremo dopo ai nostri microfoni, che ci spiegherà se la sua posizione si vuole evolvere in una edizione un po' più soft di Paolini. Grazie. Giuseppe da Napoli, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Volevo intervenire in ordine a questo divieto di vendita di alcolici ai minori a Milano. Io penso che questa sia una polemica sterile, perché di fronte ad un problema che esiste, ma esiste davvero questo problema? Domanda, esiste davvero? No, ma a vedere i dati non mi sembra, però. Non possiamo negare che l'età media è sicuramente scesa per quanto riguarda la somministrazione di alcolici. Lei vada in una discoteca, anche quelle diurne o quelle notturne, e vedrà che in effetti è aumentato. Adesso, stando così le cose, io mi domando. Faccio un provvedimento. Se io con questo provvedimento riesco a recuperare il 30-40%, già ho avuto, poi dopo posso avere un miglioramento del provvedimento. Ma io non credo che si possa polemizzare 16 anni e un giorno, lo faccio come controllo, come non controllo. Faccio un provvedimento in una certa misura. Poi potrò recuperare fasce di ragazzi e recupererò il 30, 40, 50. Ma sì, col provvedimento. E il problema, Giuseppe, la ringrazio di questo intervento, è che l'Italia è piena di codici, codicilli, norme, contronorme, repliche di norme, soppressione di norme. Ci sono delle grida manzoniane ovunque, su qualsiasi argomento, che poi naturalmente puntualmente non vengono rispettate. La ringrazio, TG3. La fiducia alla Camera sulle norme anticrisi, la maggioranza sostegno imprese e famiglie, ma il partito di Lombardo non partecipa al voto. L'opposizione attacca, col decreto dice Bersani, tasse agli abruzzesi e condono agli evasori. Casini, c'è una nuova questione meridionale. Domata la gran parte degli incendi in Sardegna, ma l'allerta resta alta, allarme roghi nel sud Europa, dalla Spagna alla Turchia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, la nuova influenza si sta diffondendo in tutto il mondo, ma il virus non ha subito mutamenti. Via libera l'agenzia di valutazione del sistema universitario, i migliori atenei riceveranno più fondi, ma è polemica sui criteri. Totò Riina è interrogato in carcere per le sue dichiarazioni alla vigilia della strage di Via D'Amelio sulla trattativa Stato-Mafia. Aumenta il bottino italiano ai mondiali di nuoto, Tania Cragnotto e Francesca Dall'Appè vincono l'argento nei tuffi sincronizzati. La star mondiale della danza Roberto Bolle nei più bei teatri d'Italia, una tournée estiva per promuovere... Va bene, sentite questo ascoltatore Marco da Mestre che sostiene: senza la pubblicazione delle registrazioni non avremmo saputo delle 30 tombe etrusche. Perché di 30 tombe etrusche parlò Berlusconi con Patrizia Daddario. Con i migliori saluti, Marco da Mestre. Vi interessa molto, domanda, questa questione delle tombe etrusche? A me no. Sky TG24. Decreto anticrisi alla Camera, del voto di fiducia, no alla stretta sulle banche. Roghi quasi domati in Sardegna, vasti incendi in Spagna, Grecia e Francia. Giornata da caldo record, mentre gli italiani vanno in vacanza, attese le prime piogge. Sanità in rosso, Palazzo Chigi commissaria Campania e Molise. Università, la svolta del governo, concessi più fondi agli atenei virtuosi. Blitz di Pietrista contro la Gelmini, il ministro lascia la sala stampa. Influenza A, i dati dell'OMS mettono paura, la pandemia ha già colpito 160 paesi. La verità di Riina sulle stragi di mafia, il boss interrogato a Milano per 3 ore. Bimbo sbranato dai cani ad Acireale, il fratello fa scena muta davanti al giudice. Tuffi d'argento, storica medaglia dal trampolino per la coppia Cagnotto Dall'Appè. La civiltà del bere è cultura. Cos'è? Tu non puoi dire che bere è un delitto. E siccome gran parte dell'alcol è vino, impedire la produzione di vino, in questo caso limitandone l'accesso nella formazione, vuol dire portare la Coca-Cola come modello culturale. La Coca-Cola, che è una spremuta di merda, la porti e invece di fare la santa messa con il vino, la fai con la Coca-Cola. Ora, noi siamo cristiani e pane e vino sono valori culturali. Lavoratti, torni a scuola e studi. Allora, a parte che io, per esempio, sono un bevitore di Coca-Cola e non considero affatto la Coca-Cola una bevanda di M, come ha detto Sgarbi, ritorna sempre d'attualità, dopo questo intervento di Sgarbi ieri sera, ad Iceberg, la vicenda Moratti, alcolici sotto i 16 anni. Perché, pur con motivazioni diverse, in parte diverse da quelle di Sgarbi, io sostengo ancora la linea che si tratta di un provvedimento non sbagliato, sbagliatissimo e comunque assolutamente inefficace. Il 34%, da dove viene questa cifra? Sindaco Moratti, 34% dei ragazzi milanesi di 11 anni con problemi di alcolismo, ma dove l'ha presa questa cifra? Non esiste. A Milano il 34% dei ragazzi undicenni ha avuto esperienze di abuso proprio di alcol. Dove viene? Qualcuno ci deve spiegare da dove viene questa cifra. Nessuno ci è riuscito fino adesso a scovarla questa cifra. Probabilmente non esiste, è presa qua e là. Si prendono provvedimenti senza cifre, senza una base reale. Almeno non citarli, no, mi rivolgo al sindaco Moratti. Non li citi, non citi questa cifra, non dica nulla e basta. 800 24 00 24. Emilio Fede e il senatore Pedica, il Paolini dell'Italia dei Valori. Sentite, poco fa. Allora, c'è un episodio, si potrebbe definirlo increscioso, comunque, insomma, durante la conferenza stampa del ministro Gelmini c'è stato, questo è uno dei momenti, un esponente, un senatore dell'Italia dei Valori, quindi un alleato. L'Italia dei Valori è sempre una forza molto democratica. Complimenti. Ecco, che cosa è accaduto? Eccolo qua, lo vedete, un senatore, chiamo Stefano Pedica o qualcosa del genere, dell'Italia dei Valori, ha voluto occupare la sala stampa impedendo al ministro di poter proseguire la sua esposizione, soprattutto l'incontro con i giornalisti, e costringendo il ministro ad abbandonare la conferenza stampa. Il senatore Pedica o qualcosa del genere dell'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Avete sentito, Fede, che storpia il nome del senatore Pedica? È ormai un suo modo un po' per mettere alla berlina i personaggi che non gli sono simpatici. Va bene, 800 24 00 24, fra poco arriva Padre Fanzaga, non vi preoccupate. Prima però l'attacco del trio, ormai lo si può chiamare così, del trio Di Pietro, Travaglio, Grillo contro il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che invece gode di un consenso larghissimo in Italia. Addirittura, qui lo potete sentire, intervistato da Radio Radicale, Marco Travaglio paragona Napolitano a Cicchitto, a Fabrizio Cicchitto, perché, sentite. È entrato a piedi giunti nell'agone politico, mettendosi a polemizzare con l'unico che in Parlamento in questo momento sta facendo opposizione, cioè con Di Pietro. Da un lato invoca la tregua per proteggere il capo del governo e dall'altro lato attacca l'unico che fa opposizione in Parlamento. Mi sembra un fatto abbastanza inquietante, francamente mi domando dove stia tra le prerogative del capo dello Stato previste dalla Costituzione il fatto che lui si metta a litigare come un cicchitto qualsiasi, ecco, con il politico di turno. A litigare come un cicchitto qualsiasi. Dunque, Napolitano si è messo a litigare. Questa è l'interpretazione di Travaglio. 800 24 00 24, addirittura come un cicchitto qualsiasi. Napolitano come cicchitto. A volte ritornano. A volte ritornano. È tornato a parlare Renato Soru, l'ex governatore della Sardegna, battuto da Cappellacci, come sapete, dopo una campagna elettorale molto vigorosa di Berlusconi, non aveva mai parlato finora, l'ha fatto ieri a Un Giorno da Pecora, al programma di Radio 2, molto bello secondo me. Soru prima di Natale Berlusconi cade, insomma, previsione interessante, soprattutto per uno che era così sicuro di andare a vincere in Sardegna, a mani basse, sentite. Oggi Berlusconi dice: ho trovato un disastro. No. Perché si è dimenticato che per 5 anni c'è stato lui. Ma secondo lei più o meno quando è che inciampa? Così a occhio più o meno, adesso per regolarmi un attimo anche... Io mi sono dato la scadenza prima di Natale, voglio festeggiare il Natale, io lo spero. Voglio festeggiare il Natale, ha il dente avvelenatissimo, non avvelenato, avvelenatissimo Soru. Sentite, si è capito dopo queste rivelazioni, dopo questi mesi di Sexygate, perché Berlusconi era molto interessato alla campagna elettorale sarda. Ci sono state le elezioni capitano in democrazia, no. Le ho causate qualche mese prima perché ci tenevo a terminare il mio mandato in totale fedeltà alle cose che avevo annunciato in campagna elettorale. Devo anche dire che purtroppo alla Sardegna era strettamente appassionato anche il nostro presidente Silvio Berlusconi, che ha fatto una campagna elettorale totalmente sarda, si è accollato in prima persona a questa campagna elettorale. Lui ha detto oggi che... sappiamo anche perché. Esatto, perché aveva le tombe fenice nel giardino, certo, di casa. Perché aveva anche da farci dell'altro nel giardino. Ma di quindi casa. Non è teoria abbastanza curiosa. Berlusconi, perché si è interessato alla campagna elettorale sarda? Perché vi ha partecipato con grande ardore, con grande presenza? Secondo Soru oggi lo si è scoperto proprio per il Sexygate. Bah! Livio Fanzaga. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Due cose molto carine oggi di padre Livio Fanzaga, dalla sua rassegna stampa e dal caffeino mattutino di Radio Maria. La prima è su questa visita che ci sarà, forse sì, forse no, di Berlusconi a Padre Pio, al santuario di Padre Pio. Adesso Libero, dove il direttore Feltri è una vecchia volpe che trova sempre filoni nuovi per farsi leggere, adesso si è buttato su una cavolata vera e propria, no? Una cavolata vera e propria. Dunque in un paese della Puglia ci sarà un convegno del PDL al quale fra l'altro sono stati invitati anche esponenti dell'opposizione come D'Alema, Casini e Rigoletta, e naturalmente è stato invitato anche Berlusconi. Allora, però non si sapeva all'inizio che questo luogo del convegno era addirittura San Giovanni Rotondo, e allora è scoppiato sui giornali una polemica che è, non so come dire, è roba da insomma, siamo a livello della cretinite acuta, no? Se il Premier possa, lui che è un grande peccatore, capito, come se noi fossimo giusti poi, e comunque non è un santo, come lui ha detto, possa andare a fare un convegno a San Giovanni Rotondo e magari poi recarsi in chiesa a visitare la tomba di Padre Pio. Allora, naturalmente la maggioranza e l'opposizione si sono divise su questo argomento. Ma ditemi voi, c'è proprio da ridere, insomma. E non ha tutti i torti in questo caso sulla polemica che si è aperta riguardo alla partecipazione di Berlusconi ad un convegno dalle parti del santuario di Padre Pio. Qui ironizza un po' sugli incendi in Sardegna, sentite. La Repubblica dedica pagine all'emergenza incendi, specialmente in Sardegna. Titolo a pagina 9, Sardegna in fiamme, due morti e turisti in fuga. Paura in tutta l'isola, case evacuate, distrutti 10.000 ettari di bosco. Gli anziani al riparo nelle chiese, era l'unico posto rimasto sicuro, dicono. Cari amici, o le fiamme dell'inferno o la casa del Padre Eterno. Padre Fanzaga, che è in questo momento il vero leader dell'opposizione in Italia, voglio rilanciare naturalmente il sondaggio tra i nostri ascoltatori: Gianfranco Fini, prima possibilità, Giorgio Napolitano, il ticket Ezio Mauro, Patrizia Daddario e poi Murdoch, ci ha proposto Fabrizio Rondolino, e gli altri Raffaele Lombardo e il governatore della Banca d'Italia Draghi. Ma andiamo a sentire Paolo da Torino, buonasera. Dica. È una domanda, non è un neanche un intervento. Volevo sapere qualcosa di più su una lettera che ha pubblicato il Foglio a proposito del professor Marino e dei suoi problemi trascorsi, lavorativi. Non ho saputo niente di più. Lei mi sa dire qualche cosa? Ho letto anch'io con grande interesse, riguarda il motivo per cui Marino fu allontanato, si dimise dall'istituto di Pittsburgh che... e anche da quello di Palermo, dai suoi tumori, sembra per fatture false, per note spese truccate. Una cosa che lo stesso... Un altro sì, non ho visto niente da nessun'altra parte, ma è una cosa fondata, lei non sa. Forse dopo sentiremo Marino, fino adesso Marino non ha risposto, forse domani ci saranno risposte sui giornali, sta dando delle interviste, più tardi lo sentiremo forse anche noi. Comunque sicuramente una storia abbastanza opaca, come scrive il Foglio. Ripeto, note spese truccate alla base dell'allontanamento di Marino dall'istituto sia di Palermo che di Pittsburgh nel 2002. Certo, per uno che parla poi sempre di moralità eccetera eccetera, sarebbe un colpo grave alla corsa alla candidatura. Davide da Torino, buonasera. Buonasera. Ma senti, io volevo prendere di nuovo spunto dalla vicenda Berlusconi-Daddario per dire due cose principalmente. La prima, che dire che l'Espresso faccia una campagna contro Berlusconi mi sembra un po' esagerato per un semplice motivo, che si punta, come appunto diceva lei, l'attenzione sul rapporto Berlusconi-Daddario, lasciando invece da parte la cosa invece che è principale, più importante, che è la ricattabilità del signor Berlusconi rispetto a tutte queste sue relazioni che può avere e che sono assolutamente fatti suoi, che lui abbia tutte le relazioni del mondo. A casa sua ognuno può fare cosa vuole, anche se poi in realtà non è a casa sua ma è un palazzo istituzionale. Ed era la prima cosa su cui volevo focalizzare. Sì, è ricattabilità che non è dimostrata nei fatti però. E diciamo, come no? dove sarebbe stato ricattato? Lei dà già per scontato che Berlusconi sia stato ricattato. Ci sono stati, è uscita questa cosa, non sono io a dirlo ovviamente, ma giornalisti un po' più importanti nel panorama italiano dicono che i servizi segreti si sono preoccupati molto del fatto che entrassero e uscissero qualsiasi persona senza essere controllata da Palazzo d'Azione. Innanzitutto i servizi segreti non parlano di solito, per cui lei non può trovare nessun virgolettato attribuito ai servizi segreti, primo. Ma sa benissimo che le voci di corridoio quando si... Ma non c'è nessuna voce di corridoio, tutti ci siamo posti il problema della... non della ricattabilità, del fatto che l'entrata a Palazzo Grazioli, che comunque è una sede istituzionale, o a Villa Certosa, fosse un'entrata diciamo, non particolarmente protetta. Ma questa è una cosa diversa dalla ricattabilità. Certo, e poi un'altra cosa, lasciando perdere ovviamente perché con tutti i giornali filo governativi come Libero, Il Foglio, Il Giornale, che comunque tutti i giorni buttano nei confronti di Pietro, che è veramente l'unica opposizione, volevo solamente segnalare una segnalazione. Il signor il parlamentare dell'IDV, il signor Palagino, ha fatto oggi un'interrogazione parlamentare per la morte di Aldo Bianzino, sequestrato dalla polizia in casa sua, è morto in carcere per pochi grammi di erba. Vabbè, fare cosa questa segnalazione, visto che faccia questa segnalazione, è una cosa molto grave. Va bene, Davide, grazie di avercela segnalata, raccoglieremo questa interrogazione. La ringrazio. Giuseppe, sempre da Torino, buonasera. Il senatore Pedica oggi protestava nei confronti del ministro Gelmini perché secondo lui il ministro Gelmini doveva rispondere sul mancato commissariamento del comune di Fondi, in odore di criminalità al comune di Fondi. Pronto? Sì, Giuseppe, dica. Ah sì, buonasera Cruciani. Senta, volevo intervenire. Io premetto che non sono né di destra né di sinistra. L'ultima elezione premessa che non è necessaria perché a noi non ce ne frega niente. No, ma non è perché possa fregare qualcosa a lei, ma per cercare di dimostrare che il mio è un giudizio indipendente dalla politica. No, ma anche questo, Giuseppe, mi scusi se insisto su questo, Giuseppe. Non è che se uno dice io poi il suo pensiero sia minato all'origine. Lei può dire io ho votato questo e però penso un'altra cosa. Ho votato due volte in modo diverso per convinzioni diverse. Vabbè, comunque il mio intervento spero che sia rapidissimo su due argomenti. La delibera Moratti. Io parlo con l'esperienza di chi ha quasi 60 anni e ha 4 figli, per fortuna fino adesso benissimo, la più grande è laureata, una libera professionista, lavoro eccetera eccetera, gli altri sono all'università, non mi hanno dato problemi. Io reputo un provvedimento giusto, perché ogni tanto è giusto che anche le istituzioni diano delle regole, che poi ci siano i mezzi per farle rispettare, che poi ci si accanisca politicamente da una parte o dall'altra, è un altro discorso. Io sono molto indignato, sto decreto degli alcolici è una parentesi, per esempio sull'apertura delle discoteche dopo l'unanotte, perché questo qua è un malcostume, è un cattivo esempio per i ragazzi. Cioè le discoteche devono chiudere a luna di notte, secondo me. A luna di notte, le dico, dottor Cruciani. Giuseppe, ma è inconcepibile, siamo seri, non è immaginabile una cosa di questo tipo. L'anno. La gente va in discoteca dopo l'una di notte, non fino a luna di notte. E poi cerchiamo di rimediare a tutte le stragi del sabato sera con leggi assurde. Beh, questo è un altro discorso. Se lei pensa che sia realizzabile un provvedimento che chiude le discoteche a luna di notte, stiamo freschi. Faccio 80-90 mila chilometri l'anno. Anch'io ho paura di tornare di notte perché ci sono ubriachi, c'è di tutto, c'è gente che ti sorpassa da tutti e due i lati. A me capita. Giuseppe, adesso io ogni tanto torno a casa dopo l'una di notte, non mi sembra che ci sia una situazione così drammatica, dipende naturalmente dalle strade, dai momenti, dai giorni. La ringrazio. Andiamo a Sassari, provincia di Sassari. Domenico, buonasera. Buonasera Cruciani. Allora, fra poco di nuovo Sgarbi, però io voglio capire una cosa, devo mandarla questa cosa hard di Sgarbi oppure no? Ditemelo, suggeritemelo, perché qui sono in grossa difficoltà. Domenico, dica. Allora, io intanto vorrei parlare da sardo, perché sono sardo e vivo la realtà della Sardegna, anche vivendo fuori dalla Sardegna, in giro per il mondo. E che ci vuole dire da sardo? E volevo dire anche parlare di Suru e anche di un po' di Berlusconi, se me lo permette. Sì. Tanto lei è un grande giornalista e da anni la seguo. No, io non sono un grande giornalista, però lei da sardo cosa ci vuole dire di Soru, che è tornato a parlare di Berlusconi e dice Berlusconi cadrà a dicembre? Io aspetto solo che cada Berlusconi al dente avvelenato, Soru. No, io non do, assolutamente no. Io sono contento che sia caduto Soru. Perché è stato perché è contento? Di noi sardi. Perché Soru è stato un sardo solo di cognome e non certo di fatto. Perché penalizzando a noi sardi in tutto e per tutto. Ah, beh, questo è una cosa un po' generica. Penalizzare i sardi, generica, che significa? Sì, penalizzare nel viaggiare, non ha mai fatto niente. Vedi, noi sardi. Come? Ha impedito ai sardi niente. Di viaggiare? Penalizzare di viaggiare? Certo, che significa? Sì. Ah, non mi risulta. Ma le dico io, guarda, io scendo in Sardegna 2-3 volte al mese quando capita. Il disagio di un sardo tanto non si trova mai posto sulle navi, sulle cose. Che colpa di Soru, abbia pazienza. Soru c'ha le sue corte. Vabbè. I sardi viaggiano peggio, è colpa di estate, colpa di Soru. Sì, mi pare una cosa un po' bizzarra, francamente. Sì, colpa dei presidenti della regione. E che cosa hanno fatto? La regione sarda, perché di politica e tutti siamo bravi a parlare di politica, però nell'operare da Soro, da Segni, da Cossiga, da tutti i politici che abbiamo in Sardegna, che non è stato mai fatto niente per la Sardegna. Per i sardi e per la Sardegna. Vabbè, a parte Soro, che mi voleva dire? Soro cosa ha fatto? Ha messo la tassa sul lusso, ha messo la tassa su, impedendo a chi vuole fare turismo e chi vuole portare i suoi soldi in Sardegna, non ha permesso di fare questo. Beh, a conti fatti, certo, la tassa sull'uso si è rivelata un boomerang per Soro. Assolutamente, con le barche. Poi Domenico, poi Berlusconi, che ci vuole dire? Berlusconi, tanto è un grande uomo. Io non ho mai votato per Berlusconi, come non ho mai votato per Soro. Grande uomo, insomma, non mi faccia adesso con un'apologia così sperticata di Berlusconi, non ne abbiamo bisogno. Un attimo solo, Domenico, qui è venuta una smentita, un'altra miserabile storia. Niccolò Ghedini, le care di Berlusconi, definisce così la vicenda delle 30 tombe fenice, non etrusche come ho detto prima, del 300 avanti Cristo, che secondo la registrazione di un colloquio con Patrizio D'Addario pubblicato sul sito dell'Espresso sarebbero state ritrovate a Villa Certosa. Mai il presidente Berlusconi potrebbe aver parlato del ritrovamento di 30 tombe fenice nel suo parco, perché mai nulla di simile si trova o è stato rinvenuto nell'area di Villa Certosa, un'area, afferma, già oggetto di un minuzioso accertamento dall'autorità giudiziaria, conclusosi poco tempo fa. Qualsiasi ulteriore controllo in merito potrà essere eseguito in qualsiasi momento. Un'altra miserabile storia con cui si tenta di gettare discredito nei confronti del presidente Berlusconi, che è smentita dai fatti. Insomma, secondo Ghedini, queste 30 tombe fenice non esistono più. Anzi no, non esistono più, non sono mai esistite in realtà. Beh, avete capito che la battaglia politica nelle ultime ore si è concentrata anche sulle tombe fenice di Villa Certosa, con il Partito Democratico, una parte del Partito Democratico che ha fatto polemica su questo, cose di grandissimo livello, di grandissimo spessore. Lorenzo da Roma, buonasera. Salve, dottor Cruciani, sono contentissimo di parlare con lei. Anch'io, dica. Un piccolo ragionamento sul fatto dell'alcol. Allora, io sono perfettamente d'accordo con lei che storicamente il proibizionismo non è servito mai a niente, si possono mettere anche multe di 1 milione di euro. E sono anche d'accordo con lei sul fatto che il ministro Moratti, anzi il sindaco, ha probabilmente sovrastimato la percentuale. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che le statistiche possono essere rigirate un po', no? A piacimento di chi le... Ho capito, Lorenzo, però in questo caso, siccome viene motivato un provvedimento con una cifra, 34% di ragazzi, vogliamo risentirla questa cosa della Moratti, 34% di ragazzi undicenni con problemi di alcol, io questa cifra non la trovo da nessuna parte. Ripeto, fior di economisti si sono scervellati per trovarla, per ricavarla, niente. A Milano il 34% dei ragazzi undicenni ha avuto esperienze di abuso proprio di alcol. Non è vero, non è così. Questa mattina Oscar Giannino ha cercato di spiegare forse da dove viene questo 34%. E tra le domande poste da esperti dell'Istituto Superiore di Sanità alle famiglie, direi di ragazzi di tutta Italia, anche dunque milanesi, è stato chiesto, c'era tra queste domande, ma i vostri figli hanno bevuto almeno un bicchiere di vino in un anno? 34% hanno risposto di sì, e dunque il pericolo di abuso di alcol deriva da questo, non so se vi rendete conto. Guardi, infatti è sicuramente una sottostima che non si sa questo campione poi da dove l'abbia presa, dovrebbe essere più chiara quantomeno. Qualcuno gliel'ha fornito e ha sbagliato, qualcuno del suo ufficio stampa, della comunicazione, non lo so. Scusa, io volevo fare un piccolissimo ragionamento, cioè è vero che questo 34% è comunque alto, ok? Però se non sarà un 34%, magari sarà un 20%, un 10%, ma comunque una piccola percentuale di bambini, no, di adolescenti che fanno uso di alcol comunque c'è. e quindi è un problema che deve essere considerato quantomeno, anche se non è così grande, ok? E quindi che cosa si può fare? Io le chiedo, se il proibizionismo sicuramente è una cosa che non serve, cosa si può fare, anche se la percentuale è minore? Guardi, Lorenzo, io non so cosa si possono fare, tante cose, ma le faccio un altro esempio, magari sbagliato. Siccome un sacco di ragazzini passano ore e ore davanti a internet, davanti al computer, insomma ci sono un sacco di ricerche che dimostrano che la cosa può provocare dei problemi anche di salute. Che facciamo? Facciamo un provvedimento, un'ordinanza comunale, una delibera comunale per limitare le ore in cui i bambini o i ragazzi sono di fronte al computer? Non penso, no? No, anche perché non sarebbe una cosa applicabile, come il proibizionismo. No, come i vigili che multano un quindicenne o i genitori per 450 euro se li trovano in possesso di una bottiglia di birra o di una pinta di birra, abbia pazienza. Io non so quale alternativa ci sia al proibizionismo, ce ne sono tante. Sicuramente fare una delibera, peraltro, ripeto, ci sono già norme che lo prevedono, non mi sembra una trovata geniale. Almeno io continuo a pensarla così, poi abbiamo ospitato naturalmente le opinioni di un sacco di gente che la pensa in maniera completamente diversa. Eccoci qui. Allora, un ascoltatore mi chiede: vi prego, rimandate Carlo Verdone esilarante un attimo, mandiamo anche quello. Prima voglio farvi ascoltare Landi di Chiavenna, che è l'assessore milanese che in pratica ha introdotto questa normativa, questa delibera, questa decisione del Comune di Milano sull'alcol, perché il ragionamento è piuttosto curioso, sentite. Vittorio, lo dico a tutti, la finalità non è quello che il maggiorenne deve dare da bere ai minorenni. Se il maggiorenne è a un tavolo e quindi cede e consente a dei minorenni, cioè minorenni sotto i 16 anni, di utilizzare dei prodotti alcolici, il maggiorenne viene sanzionato. Beh, insomma, avete capito la follia, cioè se a un tavolo c'è un maggiorenne e un minorenne, se il maggiorenne dà la possibilità al minorenne di consumare, cioè al minore di anni 16, di consumare bevande alcoliche, tac, arriva il vigile, non so chi altro, a sanzionare. Mi sembra che in questa descrizione di Landi di Chiavenna sia racchiusa tutta la filosofia e, se volete, anche la follia di questo provvedimento. Il senatore Stefano Pedica, Italia dei Valori, buonasera. Buonasera. Senatore Pedica, lo sa che qualcuno oggi l'ha definita il Paolini della politica? Si rende conto, il Paolini, perché lei ha interrotto una conferenza stampa di un ministro. Ma chi è stato, da chi è stato dichiarata questa stupidità? Insomma, ecco, non ho neanche replicato, perché giustamente il sottosegretario ha detto una cosa che non è vera. Noi stiamo lottando per la criminalità organizzata, per debellarla, perciò non credo di essere definito come quella stupidaggine di parola che con aiuti ha tirato fuori. Ma certo, tutti sono a favore della lotta alla criminalità, però cosa c'entra la conferenza stampa del ministro Gelmini sull'università? Cioè, lei può fare la battaglia per il commissariamento del comune di Fondi è legittima, naturalmente, e forse è sacrosanta, per carità, non la vogliamo mettere in discussione, una vicenda complessa. Il ministro Maroni vuole commissariare, l'ha già detto, poi il Consiglio dei Ministri non si capisce perché non delibera questo commissariamento sul comune di Fondi. La questione è questa: ma cosa c'entra la conferenza stampa del ministro Gelmini? No, infatti, per spiegare anche ai radioascoltatori come funziona questa prassi, è che il Consiglio dei Ministri decide se sciogliere oppure no il comune, oppure tutte le richieste che i prefetti fanno per richiedere lo scioglimento di un comune. E io, appunto, alla conferenza stampa del Consiglio dei Ministri, nel qual caso appunto c'era il ministro Gelmini, ma ci poteva essere Brunetta, ci poteva essere Scajola, chiunque, la mia richiesta era, perché la mia prima domanda è stata: avete sciolto il comune di Fondi? Dalla risposta del ministro Gelmini, che all'inizio nicchiava non capendo che cos'era il comune di Fondi, lei ha detto no, ma forse lo faremo nelle prossime, e allora io da lì ho capito che non era stato sciolto. Dopo un anno di richiesta del prefetto Frattasi, dopo quattro mesi di richiesta da parte del ministro Maroni, l'ennesima, appunto, ecco, negazione da parte di un diritto che era quello di sciogliere un comune, che avviene attraverso il Consiglio dei Ministri. Perciò io non sono andato lì per dare fastidio a una ministra, sono andato lì a chiedere a un ministro che cosa ne pensava dello scioglimento di un comune ad alta infiltrazione mafiosa, dove anche quattro mesi fa è stata bruciata una macchina, un carabiniere, e il 6 luglio sono state arrestate 17 persone. Ecco, il mio quesito era solo questo. No, però Pedi, che io ripeto, capisco qual è l'obiettivo. Poi però è vero che ci sono tanti ministri. Allora, perché non fate un girotondo, siccome recentemente il suo leader Di Pietro è andato a fare un girotondo al Quirinale? Andate davanti al Ministero degli Interni. Guardi, le do uno scoop così almeno. Io mi sono incontrato poco fa con il ministro Maroni in aula, che c'era alla Camera l'ennesima votazione, insomma, per come fiducia sul decreto anticrisi. Sì. Ebbene, il ministro in questo momento, da prima che era favorevole, adesso si è rifiutato di parlare anche davanti ai giornalisti. Dice: non rilascio dichiarazioni in questo momento. Gli ho detto: se ti fai tappare la bocca anche te, allora andiamo bene. Allora, oltre appunto a testimoniare la nostra protesta, la protesta degli italiani, che facendo così non facciamo altro che dire ai criminali che stanno a fondi: continuate a farlo, perché tanto non vi sciolgono. Questo è il messaggio serio e politico. Fondi, provincia di Latina, Fondi è un comune in provincia. Fondi provincia di Latina, ma quanti fondi ci sono in tutta Italia? Tanti. Ve lo posso assicurare, sono Senta, tanti. Ma qual è l'ostacolo secondo lei? Qualcuno dice che c'è un senatore del PDL che è molto forte lì in quella zona, che si oppone, però un senatore non è che si può opporre, diciamo, a un intero al ministro degli interni. Quello mi sembra strano, no? No, no, assolutamente. È la provincia di Latina, che è in mano al centrodestra da dopo il fascismo, per dire. Ho capito, ma il ministro Maroni sarà più forte della provincia di Latina? Sarà più forte delle volontà di un territorio, guardi, o no? Guardi, le posso dire che oggi ho visto un altro Maroni. Un Maroni dove gli hanno obbligato anche lui a tacere, ad assistere a questo silenzio omertoso. Ecco, su questo io me ne dispiace, perché lo abbiamo visto. Io, insieme ad alcuni giornalisti della Dire, dell'Agi, che erano a fianco a me, hanno ascoltato le parole. Magari non voleva parlare, non voleva parlare. Mica ha detto che se uno non parla è omertoso, magari non voleva parlare pubblicamente. Io dico solo che la situazione sulla criminalità è veramente grave, non solo, lo ripeto, in provincia di Latina, ma in tutta Italia. Non si può gioire della chiusura del Café de Paris con un'azione fatta dalla polizia e poi disconoscere una 500 cartelle di un prefetto dove dice che ci sono infiltrazioni mafiose, e da un anno a questa parte sta dicendo che bisogna chiudere quel comune, e lo stesso ministro Maroni che dice va chiuso 4 mesi fa, e nei palazzi quando c'è il consiglio dei ministri c'è qualcuno che non... Bisogna dire Pedica, che appunto il 15 di maggio, anzi il 14 di maggio, il ministro Maroni disse che il comune di Fondi deve essere commissariato per infiltrazioni mafiose. Poi evidentemente ci sono dei ripensamenti, degli ostacoli che lei vuole esatto, sviscerare. Però io ripeto Pedica, io non conosco bene la vicenda, dunque non le posso dire, però se il ministro degli interni dice che deve essere commissariato, è evidente che mi basta la parola del ministro degli interni da questo punto di vista per dire che il comune va commissariato. Certo. Lei fa bene a fare questa battaglia. Io ripeto ancora una volta, fare il Paolini con un'incursione durante la conferenza stampa del ministro Gelmini, secondo me non ci azzecca. Forse serve a riportare la vicenda in prima pagina, non lo so, l'intento no, è questo. Assolutamente, guardi, il nostro intento non è quello. Il nostro intento è la lotta alla criminalità, non ha colore politico. E la mia domanda a un ministro, che era un ministro che siedeva al piano di sopra pochi minuti prima e doveva dire io voglio sciogliere il comune di Fondi, non lo ha fatto e non l'ha detto. Ma che ne sa il ministro Gelmini della vicenda? Abbia pazienza, Peri. Un ministro che vota una richiesta fatta da un ministro degli interni, non so se si sa, se lei sa come si svolge il Consiglio dei Ministri, su una proposta di un ministro si esprimono gli altri ministri. E perciò questo appunto, ecco, e si chiama... Ma forse ancora non è arrivato al tavolo del Consiglio dei Ministri questa vicenda. È arrivato al tavolo del Consiglio dei Ministri da tanto tempo, sono 4 mesi, se lei parla anche con il ministro Maroni glielo dirà. Ma qual è l'ostacolo? Me lo dice lei allora, qual è l'ostacolo al commissariamento del Comune? Per quello che io voglio denunciare, come ho denunciato oggi, è che qualche ministro dialoga con quella parte di Latina che sta parlando con la criminalità organizzata. Quale ministro? È un'accusa grave, c'è una parte, certo. Qualche ministro, lei dice, dialoga con... Sta rallentando, non ci sono altre spiegazioni. Cioè, qualche ministro dialoga con chi? Con i mafiosi, con i camorristi di Latina? Per forza, con la criminalità organizzata, non solo con... E quali, quali ministri? Chi, quale ministro? Lo so, qui ce lo dovranno dire loro, perché se sono... No, è lei che fa la battaglia, avrà qualche idea, no? Beh, io non ho idee, io ho solo idea che in questo momento il ministro Maroni chiede e il Consiglio dei Ministri lo glissa e dice ne parliamo la prossima settimana, ne parliamo la prossima settimana. Bisognerebbe chiedere a Bonaiuti e a Letta che cosa vuol dire ne parliamo la prossima settimana da 4 mesi a questa parte. Va bene, Pedica, io la ringrazio, però non mi faccio il Paolini. Io non l'ho mai fatto e tantomeno lo voglio fare. Io rispetto la legalità e i cittadini e la lotta alla criminalità, lo ripeto, non è da Paolini, è da Italia intera che lo sta lottando da quando sono nato io, guardi. Va bene, va bene, va bene. Dobbiamo lottare contro la criminalità e la criminalità. Ho capito, ma questo siamo d'accordo tutti. Solo Bonaiuti poteva dire perché lui fa gossip, noi invece facciamo quello che facciamo, e cioè dire la verità alla gente, e questa verità è che sono 4 mesi che non si scioglie un comune e ogni Consiglio dei Ministri la criminalità organizzata festeggia perché dice anche questa volta abbiamo dato l'esempio che facendo criminalità ci si guadagna. Vabbè, non è che adesso il commissariamento fa sparire la criminalità dal comune di Fondi. E gli 17 arresti ci sono stati. No, sì, non sto dicendo, per carità, secondo me va commissariato il comune di Fondi. Gli ho detto mi basta la parola del ministro degli interni, però non è che commissariando il comune di Fondi tocco con la bacchetta magica sparisce la criminalità a Fondi, non è così. No, guardi che ci sono stati 17 arresti, no? Perciò si deve sciogliere e poi si devono continuare ad arrestare le persone. Ma questo sì, questo certo. E noi siamo per questo, il nostro è un partito. No, ma ho capito, Pedica, ho capito benissimo, la ringrazio, buonasera. Mauro, provincia di Firenze. Mauro, prego. Sì, buonasera Cruciani. Volevo fare una precisazione sulle tombe che è già stata fatta. Sì. Che però c'è un interesse anche storico dietro, perché c'è il dubbio, cioè rimette in gioco i primi insediamenti in Sardegna. Sì, Mauro, ma però pare ormai che queste tombe non esistano però. Ecco, nel frattempo, mentre erano in attesa, sono sparite. ci sono sparite le tombe là. Ci sono sparite. L'altra cosa, intreccio i due temi brevemente per dirle, mentre la Moratti fa, diciamo, il proibizionismo, i messaggi che arrivano dal suo capo sono quelli che è molto meglio avere rapporti non protetti. E da questo punto di vista, come padre di un adolescente, di una figlia adolescente, mi sembra un modello veramente dell'esempio. Scusi, da che cosa, da quale conversazione privata lei ha preso? In cui Tarantini dice che occhio che lui. Dunque, Tarantini docet da questo punto di vista. Quello che dice Tarantini di Berlusconi riguardo all'uso del preservativo, per lei è già una certezza, una verità non assoluta. È una certezza, però insomma è da approfondire. Ecco. Da approfondire, può essere un filone d'inchiesta per Repubblica. Berlusconi, quando fa l'amore, usa il preservativo o no? Beh, insomma, è interessante, la ringrazio. 19:56 e 39. Andiamo a Bologna da Gianni. Buonasera, Cruciani. Se vuole può proseguire col filone del preservativo. No, non mi interessa, grazie. Prego. No, volevo riallacciarmi al discorso Moratti, ma non per parlare della Moratti, in quanto poi alla fine condivido perfettamente quello che dice lei. Io sono un operatore del settore, diciamo, in quanto per vivere mi occupo di vendere birra. Sì. Volevo dare dei dati che sono poi anche verificabili e non sono così alla conoscenza di tutti. L'Italia nel ranking europeo del consumo di birra occupa l'ultimo posto, a grandissima distanza dai penultimi che bevono quasi il doppio di noi di questo prodotto. Dato interessante. Non siamo tra i primi, certamente, anche se siamo ottimi produttori come consumo di vino e tantomeno di superalcolici. Siamo i primi nel consumo di acque minerali. Quindi voglio dire, questo problema di alcolismo che stanno sbandierando da tutte le parti forse non è tanto un problema di alcolismo. Sospetto io, Gianni, che i dati, lo avevamo già detto nei giorni scorsi, i dati non è che poi aiutano molto la Moratti in questa campagna. Assolutamente no. TG5. Quasi tutti i domati gli incendi che hanno devastato la Sardegna, resta l'allarme per l'arrivo del Maestrale in azione elicotteri e Canadair. Si svuotano le città assediate da temperature record, 7 milioni in viaggio verso le vacanze. Da domani il caldo concede una tregua, primi temporali al nord. Università, arrivano più fondi per gli atenei migliori, la classifica delle eccellenze secondo il ministro Gelmini. Alla Camera il governo ha ottenuto poco fa la fiducia al decreto anticrisi. Allarme dell'Organizzazione Mondiale Mondiale della Sanità, la nuova influenza sarà presto in tutto il mondo. La propagazione del virus ha già raggiunto 160 paesi su un totale di 193. L'inviata del TG5 è in giro per Roma, Firenze e Napoli con una telecamera nascosta, fingendosi una turista. Dalle mappe delle città alle bottiglie d'acqua, ecco come qualche commerciante in malafede inganna i turisti stranieri. Come avete sentito, notizie succose, interessanti, quasi zero. Oggi proseguiamo col TG1. Fiducia della Camera al decreto anticrisi, opposizioni, espropriato il Parlamento, maggioranza, misure per il rilancio. Incendi in Sardegna, almeno 15.000 ettari di boschi in fumo, resta la minaccia dei focolai alimentati dal vento. Più soldi agli atenei migliori, Trento al primo posto, seguono i politecnici di Milano e Torino. Il ministro Gelmini, finita un'epoca. Fino a domani sera la cappa di caldo che ha investito il centro-sud, da domenica tregua dell'AFA. Non è reato palpeggiare le colleghe, purché non ci sia libidine, fa discutere una sentenza della Cassazione. Per l'Italia un tuffo nell'argento, storica medaglia per la coppia Cagnotto dalla PES, splendida prova nel sincro da 3 metri. Allora, Gianni da Bologna, un lavoratore nel settore della birra, no? Gianni, che fa per esattezza lei? Sì, sono un funzionario di vendita, un commerciale. Commerciale. Allora, un altro ascoltatore scrive: che c'entra che siamo ultimi nel consumo di birra? Magari se la bevono tutte i 14 anni. Chiaramente è una stupidaggine. Naturalmente. No, il problema è un altro, il problema semmai è legato alle occasioni di consumo, che sono tutte concentrate nel fine settimana. Cioè, se si educasse il teenager, ma non solo teenager, anche persone adulte, a un consumo moderato magari tutti i giorni della settimana, invece di concentrarli venerdì o sabato, non ci sarebbero sicuramente problemi. Per cui, secondo lei, il dato che lei conosce, che è quello della vendita della birra in Italia, è significativo perché ridimensiona tutta questa faccenda? Secondo lei un'emergenza alcol tra i giovani, tra i minori di anni 16, in realtà non esiste? Certo, ci possono essere delle sacche, dei numeri sicuramente da questo punto di vista importanti, anche una sola persona, diciamo, no? che fa abuso di alcol ci deve spingere, no, a intervenire. Però l'intervento con una delibera, con un provvedimento di questo tipo, come lo vede lei? Sbagliato? Ma è totalmente sbagliato. La repressione genera poi anche quello che è una reazione contraria, nel senso, lei però può essere interessato, no, da questo punto di vista, in conflitto di interesse un po', no? No, io opero nel settore da tantissimi anni e onestamente questo problema emergente di grande abuso di alcol, no, onestamente non lo vedo. È che beviamo male, sicuramente sì. Beviamo male, beviamo prodotti non sempre di qualità elevata e soprattutto, come dicevo prima, concentrati nel fine settimana sostanzialmente. Va bene Gianni, la ringrazio. Giuseppe da Roma, buonasera. Pronto? La sento, Giuseppe. Grazie per aver chiamato. Volevo fare un breve commento sulla vicenda di Berlusconi, nel senso che riguardando un attimo la storia dei grandi... Oggi c'è questa polemica sulle tombe fenicie, no? Un nuovo filone. Ma se guardiamo la storia, noi vediamo che quando i potenti della terra non facevano sesso, hanno sempre fatto dei grandi disastri. Per cui sapere che il nostro presidente fa sesso, come dire, mi fa stare tranquillo, cioè va verso la pace, una pace non è... Vabbè, la butta in caciara anche lei, Giuseppe. E questa è la cosa. E l'altro mi sorprende che la sinistra, che ha sempre detto fate l'amore, non fate la guerra, adesso si scompensa perché poi l'ha presa in parola. Quindi diciamo che come cittadino mi sento più rassicurato. Vabbè, insomma, la sinistra la butta sulla onorabilità delle istituzioni, insomma, sul fatto che le istituzioni... Sono un po' derise per questo comportamento, sui comportamenti pubblici del Presidente del Consiglio. Questa è l'accusa principale, no? Però al di là dell'accusa, se lei pensa a Hitler che c'era serissimi problemi sessuali, se pensa a Bin Laden che fa la dialisi e quindi sicuramente non avrà attività sessuale, lì mi preoccupa. Quindi sapere che il Presidente invece viene vivificato dal respiro di fanciulle più giovani di lui non può essere che un fatto rassicurante, diciamo, un contributo per la pace mondiale. Giuseppe, io capisco il suo amore sconfinato per Berlusconi, però un contributo per la pace mondiale, la soddisfazione sessuale del Presidente del Consiglio, insomma, lei dovrebbe fare l'editorialista della Komsomolskaya Pravda, insomma, più o meno hanno detto le stesse cose, la prenderebbero subito, Giuseppe. Ringrazio anche della sua ironia, però il punto è che quando gli uomini politici non fanno sesso è un disastro proprio, perché fanno delle cose terrificanti. Vabbè, insomma, nuova teoria, interessante, quando gli uomini pubblici non fanno sesso ce la passiamo male, invece siccome il presidente, come dice lei, a 70 anni ancora fa sesso, è un contributo alla pace mondiale. Va bene, 20 e 6 minuti, prima della pubblicità, no, ma ancora c'è tempo. Maria Giovanna, provincia di Varese. Sentiamo. Buonasera. Un leggero rumore di macchina. Sì. Buonasera. Buonasera Maria Giovanna. Senta, io come donna mi sento offesa da come... Oddio, che è successo? No, no, mi sento offesa dall'immagine che Berlusconi dà di noi donne. Ma questa è vecchia, questa è vecchia, no, Maria Giovanna. No, senta, io mi sento offesa. È tre mesi che la sento sta cosa. Sarà anche vecchia, però comunque a me dà un gran fastidio sentire e tutti questi uomini, anche questo che interviene così, io penso di valere molto di più di tutto quello che viene attualmente. Ma che ha fatto il povero ascoltatore di prima? Ironizzava un po' a modo suo, l'abbiamo preso in giro anche noi. Perché poi... ha offeso le donne? Mi scusi, non c'è nessuna offesa. Io come donna mi sento offesa. E si senta offesa. Chi l'ha trattata male? Scusi, cioè... No, questa immagine che viene continuamente pubblicizzata della donna non mi va bene, ma un sacco di donne non va bene. Poi c'è un grosso problema di questo esempio personale, che è inscindibile l'esempio personale, per chiunque accetta una carica pubblica, accidentaccio. Lui è una zona franca, chi esercita un potere, anche se viene, lo esercita con un grande consenso di popolo, non può pretendere di avere una sua zona franca, e quindi a casa sua fa quello che vuole, eccetera. Ma che esempio diamo noi alle giovani generazioni con questo comportamento così gaudente e libertino? Che valori stiamo inculcando? Senta Maria Giovanna, siccome la voglio fare scandalizzare un po', perché lei mi è simpatica, a lei Sgarbi non piace sicuramente. Sì, no? Certo che non mi piace, assolutamente. Allora, non mi le faccio sentire questo, così si arrabbia ancora di più. Lei è mai stato ricattato, ad esempio, no? No. No, io non sono ricattabile perché, perché fa tutto tutto la luce del sole. Poi ho solo problema che ho un uccello che non, no, vabbè, non questo... agisce a pagamento. Però, no, a quest'ora no. No, è così. Beh, non ho capito, ma a io quest'ora non lo so, perché me la dà perché proprio vuole darmela e io sono contento, ma se la devo pagare lui non reagisce, per cui credo anche Berlusconi, infatti non lo sapeva, perché non è che puoi andare a letto con una pagata. Che dice? Senta, io non faccio commenti perché si commenta da solo. Cioè Sgarbi, secondo lei non dovrebbe usare questo linguaggio? Ma certo che non dovrebbe usare questo linguaggio. Dunque io faccio male ogni tanto a chiamarlo, no? Me lo domando. Ma no, lei può anche lei lo fa. Io personalmente quando c'è Sgarbi spengo, perché sinceramente mi sembra veramente fuori luogo questo linguaggio, questo modo di fare. Ma perché uno si deve permettere di usare questo linguaggio? Io non mi permetto di usare questo linguaggio e non permetto che gli altri lo usino con me. Perciò se uno alla radio ha usato questo linguaggio, io la spengo. D'altra parte, ieri, durante Iceberg, il conduttore Parenzo, David Parenzo, a un certo punto ha cercato di limitare Sgarbi dicendo no, insomma, sono le 9, aspettiamo un po' le 10:30 per usare queste parole. Che è così, quando uno invita Sgarbi sa cosa gli aspetta, è un po' è così, lei ha ragione, Maria Giovanna. Quindi a un certo punto però mi risolva questo dilemma, perché io me lo domando ogni giorno, no? Siccome Sgarbi un po' fa spettacolo, non c'è dubbio da questo punto di vista, no? Me lo richiedono in tantissimi ascoltatori che mi scrivono, richiami Sgarbi, mandi Sgarbi di nuovo, ci faccia sentire di nuovo Sgarbi su Berlusconi, eccetera eccetera. Beh, io sono combattuto, che faccio? Lo chiamo, mando le cose che dice oppure no? Ma a quanto pare lei ha già deciso, perché lei lo chiama, quindi ha già deciso cosa fare, perché tanto siccome la radio e la TV sono sempre legate all'audience, per cui non importa che cosa manda la radio o la TV, l'importante è fare audience, così pure i telegiornali. Che i telegiornali siano legati all'audience è veramente una cosa scandalosa. Lei dice che ho già deciso, eh? Lei ha già deciso, perché fa audience. Poi non importa l'audience su che cosa è fatto. No, intanto ci sono delle ragioni economiche sotto, per cui i valori, ma chi se ne frega? Tanto il valore è il soldo, è il successo, è il potere. Del resto chi se ne frega? Vabbè, non adesso, venga a dire adesso che è il contrario. Non mi dica che io mandando Sgarbi cerco il potere, perché non è quello. No, il potere no. Però i soldi sì, perché se lo chiedono fa audience. No, nessuno me lo chiede innanzitutto. Vabbè, anzi, lei mi ha detto che Ma perché non mandano, fa intervenire Sgarbi, l'ha detto lei, non l'ho detto io. No, eh? Perché fanno intervenire Sgarbi? Perché faccio intervenire Sgarbi? Non fanno. Io decido sempre io, Maria Giovanna. Cioè, lei contesta Di Pietro perché usa certi linguaggi, perché è esagerato, eccetera. Se è esagerato Di Pietro, Sgarbi che cos'è? Non lo so. No, ma io Sgarbi, Di Pietro lo contesto dal punto di vista politico qualche volta, non sempre. Sono non d'accordo, ma sono d'accordissimo, ma anche per il linguaggio che usa. Ma insomma, no, quello ogni tanto, dipende da quello di quello che dice. Insomma, Sgarbi fa parte di quel mondo che ormai è al di là della politica, no? Esatto. Vabbè. Questo non significa che i ragionamenti siano sempre assurdi o siano sempre fuori luogo. Può anche avere dei ragionamenti, a volte anche delle intuizioni sulle quali potrei anche in parte essere d'accordo. No, Maria Giovanna, lo sa perché insisto su questo? Perché ieri sera ha detto anche un'altra cosa, ha raccontato anche una sua esperienza con le prostitute, no? È una cosa molto pesante che alla fine non manderò, me la lascio per la settimana prossima e sono incerto per quindi questo. Quindi la manderà? No, me la lascio forse per la settimana prossima. Lei che dice? La mando o non la mando? Ma come lei che dice? Ma lei ha già deciso. Mi viene a chiedere, ma lei ha già deciso. Per dice, la manderò settimana prossima. No, forse, ho detto forse. Io, insomma, io sono. Mi aiuti lei. No, io non penso proprio di essere di poter. No, come no? Mi sta aiutando moltissimo. Io personalmente non lo farei. Personalmente, io non lo farei, tanto che guardi, veramente ci sono tante di quelle cose che nella TV spazzatura che è diventata, ma non sono solo io ho fatto l'insegnante, sì. E adesso sono sempre in contatto con ragazzi giovani per volontariato eccetera, ma sento un sacco di gente veramente schifata da questa televisione. E la radio si salva un po' di più, proprio perché vabbè insomma vabbè, allora punto... noi ci salviamo, per adesso no, ci la radio salviamo. Si salva la Zanzara, si pure salva. Si salva oppure c'è la già la Zanzara si salva, se io l'ascolto tutte le sere probabilmente meno male, si salva meno male, ogni tanto qualche piccola volgarità esce fuori anche qui. L'altra sera l'ha ascoltato Rocco Siffredi oppure no? Sì, vabbè, pazienza, ogni tanto si può anche spegnere, non è che non esista la possibilità. Dunque, quando c'era Rocco Siffredi le ha spento? Vabbè, insomma, a un certo punto le cose mi danno fastidio, io spengo. È il mio unico modo di protestare, non ho altri modi. Allora, andiamo a Como. Giuliano, buonasera. Buonasera. Senta, dottore, io ho una curiosità. Sì. Che magari lei mi può anche soddisfare. Il ministro Carfagna delle pari opportunità aveva presentato un progetto di legge che diceva bisogna punire le prostitute e chi le utilizza. Sì, più o meno era così. Più o meno era così. Ma secondo lei è un progetto che va avanti oppure no? Io spero di no. No, vabbè, mi sembra si sia un po' arenato. Mi sembra si sia un po' arenato, non mi sembra che ci sia una grande volontà, non so da cosa dipenda, secondo alcuni da questa vicenda di Berlusconi, secondo altri non c'entra assolutamente nulla, no. Non lo so Giuliano, io fosse per me, non so se lei lo sa, io sono a favore della legalizzazione totale della prostituzione, delle prostitute che pagano le tasse, tutte queste cose qui che abbiamo nei paesi più civili in Europa, per cui questo progetto di legge certamente non mi piace. No, mi sembrerebbe abbastanza strano che uscisse una legge che punisce gli utilizzatori delle prostitute. Ah, insomma, lei dovremmo... lì voleva arrivare. Mi sembra anche così. Comunque la legge sarebbe sempre, no, quando entra in vigore una legge non riguarda il passato, per cui... No, certo, ma insomma volevo dire, perché anche questo fa tutto parte del quadro. E poi un'annotazione, sì, prego. Quando lei dice che Berlusconi fa l'amore, guardi che Berlusconi farà sesso, non vabbè l'amore. Sì, ma ha utilizzato un'espressione così leggera. Mia moglie che mi ha detto che lo devo dire, quindi lo dico. Brava sua moglie però, accolto un aspetto. Sì, brava. È brava? Sì. Grazie dottore. Grazie a lei Giuliano. Sì, Alfredo da Roma, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Dica. Senta, io quello... Che è successo? No, niente. Sentivo rumori vari? Sì, vabbè, sono in macchina. Suo figlio? Senta, quello che volevo dire sul fatto quando Berlusconi vince, se rifacciamo un po' la cronostoria, delle strane coincidenze, io le chiamo coincidenze. Nel 2001 Berlusconi ha vinto e se ben si ricorda ci sono state le Torri Gemelle. In Sicilia, quando ha fatto il cappotto 61-0, per due mesi l'Etna ha eruttato cenere, se lo ricorda. Ma nel 2006 ha vinto di nuovo, nel 2000, l'anno passato, e c'è stato il terremoto finanziario. in Abruzzo ha vinto. Dopo il terremoto ha vinto, che c'è dopo il terremoto politico che c'è stato, e c'è stato il terremoto. In Sardegna ha vinto di nuovo, e è andato a fuoco la Sardegna. Pronto? Alfredo, io la faccio proseguire, no, perché è strepitosa, no, no, questa, no, cosa. No, è così, no, è strepitoso, però... quello, no, ma non lo dico con ironia, è strepitoso perché non, no, è la prima volta che sento cose di questo tipo, però, no, mettere in fila tutte queste cose, insomma, anche lì... Però, beh, insomma, posso dire una cosa? Una portaiella, cosa secondo lei? No, questa no, è... no, no, no, non porta, non porta, per me sono coincidenze, però una cosa molto importante la vorrei dire, è che nessuno l'ha detta fino ad oggi. Qual è? Che nessuno dice che le tasse, il signor Tremonti, le tasse che ha vinto le elezioni dicendo che abbassava le tasse, le ha aumentate. E glielo dimostro perché per una persona che io conosco che ha fatto l'anno passato 102 euro di incasso e ha denunciato 15.000 euro per quegli studi di settore, ha dovuto dichiarare 15.000, quest'anno ne ha fatti 97.000, secondo lei ne dovrebbe dichiarare. Sì, gli studi di settore è un'altra cosa, non riguardano l'aumento delle tasse. Alfredo, lei è passato dal dare del corvo a Berlusconi alla questione dell'aumento delle tasse di Tremonti, due argomenti evidentemente molto diversi che l'appassionano entrambi. La ringrazio. Daniele da Torino, buonasera Daniele. Pronto? Pronto. Non la sento. Federico da Milano. Sì, buonasera, che piacere. Senta, mi sente? La sento molto bene. Ok, io volevo tornare un attimo al proibizionismo under 16. Volevo semplicemente dire che nulla, io ho 20 anni, sono cresciuto a Milano dai 14 ai 19, sono sempre uscito, diciamo, no? E posso dire, cioè, vorrei far riflettere sul fatto che un ragazzino di meno di 16 anni che si fa dare i soldi dai genitori, cioè alla fine difficilmente ha i soldi per potersi ubriacare a Milano, dove un cocktail costa 7 euro, dove una birra costa almeno 5,50 euro. Cioè, adesso io... Federico, dire che è difficile ubriacarsi mi sembra un'esagerazione, francamente. Beh, però diciamo passare all'abuso mi sembra abbastanza un caso che non sussiste. I problemi che ho riscontrato io sono ben altri, cioè non è l'alcol, non io nello specifico, ma in generale. Forse la droga, sicuramente l'uso di sostanze stupefacenti. Tra i giovani sicuramente quello, ma non sicuramente l'alcol. Ci sono anche indagini recentissime di questi giorni, di ieri, no? Ma però, non so, a Milano mi sembra assurdo una legge del genere. Capirei, non lo so, per dire in Sicilia, dove so che un superalcolico di sera lo si paga 3,50 euro. A Milano 7,50 euro, persone, anche se ce n'è uno ricco nella compagnia, cioè veramente benestante, che c'ha dietro i 50 euro, difficilmente li usa per, cioè solo lui. Sì, però Federico, questo discorso può valere anche per le sostanze stupefacenti e per la droga. Secondo me non è una questione di soldi, non è il costo dell'alcol che frena da questo punto di vista. Non la seguo su questo. Secondo me sotto i 16 anni può valere questa cosa, cioè... per l'esperienza mia, perché uscire, andare a distruggersi di alcol sotto i 16 anni succede, è normale che succeda, cioè succede, ma non mi sembra che non sia quello il problema, cioè ci sono realtà di veramente, ma tanti, comunque anche a 13 anni che già cocaina, cioè, ma tranquillamente. No, ma infatti io credo che questo sia un problema vero, quello della diffusione di droghe a tutti i livelli in età molto giovane. Esatto, se vogliamo trovare un problema sotto quella fascia d'età, secondo me è quello. L'altro bene, bene, Federico, la ringrazio, grazie. Angelo da Torino, buonasera. No, da Roma. Angelo da Roma, va bene. Ciao, senti, io volevo fare... Ci diamo del tu? No, credo di no, no, è meglio di no. Senta, io volevo dirle, praticamente, se io non bevo, no? Tante volte vado in discoteca, bevo Coca-Cola come piace a lei... E tante volte mi trovo a portare... No, a me non è che piace solo la Coca-Cola, piace anche la Coca-Cola. Vabbè, io sono astemio per arrivare appunto. Praticamente io guido con la macchina, tante volte accompagno amici imbriachi fatti, cioè perché non possono via la macchina, magari la lasciano lì fuori in discoteca. Sì. E le garantisco che non è una guida. Cioè, se io porto tre amici al Ticci in macchina, è come se parlassi al telefono col cellulare. Quindi farebbe bene la polizia a fare la multa, è una provocazione chiaramente, anche a quelle persone che accompagnano, perché non fanno una guida normale, tranquilla. Allora, mi scusi, Angelo, che significa? Cioè, le persone che accompagnano, che non hanno bevuto, che durante la sera non hanno bevuto e che accompagnano persone magari al TICI, andrebbero multate anche quelle? Se no, è una provocazione. Ma insomma, mi sembra una provocazione inutile. No, perché... però le garantisco che non è una buona guida. Poi una domanda, gliela posso fare, una domanda? Prego, dica. Io ho dei dubbi. Penso, non lo so, come milioni di italiani, almeno quelli che stanno all'opposizione. Sì. E penso che questo dubbio ce l'ha anche lei. Ma secondo lei, dopo i recenti fatti, a me mi è venuto un dubbio. E qual è? Ma la Carfagna, la Prestigiacomo, la Carlucci, la Gelmini. Ecco la stupidaggine della serata. No, non è la stupidaggine, ma il dubbio ci può essere. Sì. Ma perché nessuno fa questa domanda? Ma perché stanno... Ma sono mesi che si parla di queste cose, Angelo. La ringrazio. Gianluca da Latina, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Dottor Cruciani, buonasera. Mi sente? La sento. Sì, no, volevo fare un intervento riguardo lo scioglimento del Consiglio di Fondi, perché ho visto che prima se ne parlava. Sì, del Comune di Fondi, sì. Che esatto, succede? Esatto, come sono, diciamo, del posto, ho, diciamo, informazioni anche da quotidiani e da quello che si parla localmente. Ah, il problema lì è semplicemente uno, che Fondi, come anche tutta Latina e la provincia, è notoriamente un feudo della destra. Sì. E rispetto ad altre province, altre città, non c'è proprio opposizione. Cioè... L'opposizione non c'è. Allora, Gianluca, adesso riprendiamo. Mi sente o non mi sente? Sì, mi sente? Sì, ecco, adesso la sento meglio. Ah, ecco. E quindi c'è un'opposizione tra i maggiori partiti della maggioranza, che sono appunto Alleanza Nazionale e Forza Italia. Sì, all'interno c'è una dinamica che riguarda solamente i partiti della maggioranza, sì, delle faide interne. Allora? Esattissimo. E c'è un senatore molto potente, diciamo, che è appunto del Comune di Fondi, il quale porta tantissimi voti, è stato mister preferenze nelle elezioni di 4-5 anni fa, ora non ricordo. E quindi è molto influente all'interno del partito. Sì, il senatore Fazzone, sì. Esatto, volevo fare il nome. Però. No, ma non c'è problema. Cioè, secondo lei l'ostacolo allo scioglimento del Comune di Fondi è il senatore Fazzone? È solamente quello. Sì, perché... però io ripeto, siccome il ministro degli interni ha detto che il Comune di Fondi va sciolto e va commissariato perché per infiltrazioni camorristiche, infiltrazioni... della criminalità, io, per carità, può essere anche molto potente questo senatore Fazzone, lui dice che è tutto un complotto, che non si deve sciogliere questo comune. Mi sembra strano che un singolo senatore, per quanto potente, possa impedire lo scioglimento di un comune, ecco. A parte che in questo modo si dà del criminale a Fazzone, dicendo che è lui che impedisce lo scioglimento di un comune che è inquinato dalla criminalità, insomma. Le dico che comunque già è stato indagato su altri aspetti. Sì, ma che sia indagato a me non me ne frega niente. Tanta gente è indagata e poi si è scoperto tempo dopo che non c'entrava nulla. Quello che si dice qui a Latina, ecco, io volevo solo fare questa testimonianza, io non sto dando delle... No, Gianluca, ho capito. Secondo lei c'è il senatore Fazzone che impedisce lo scioglimento del Comune di Fondi. Quello che si dice? Lo dice esplicitamente anche il senatore Pedica, lo dicono altri, l'opposizione... questo si sa, basta leggere i giornali. Da questo punto di vista non c'è dubbio. Io, dal mio punto di vista, sostengo che mi sembra complicato e difficile che un singolo senatore possa bloccare tutto. La ringrazio. Daniele da Torino, buonasera. Dica, la sento. Sì, io volevo dire che tutta questa campagna di Repubblica L'Espresso, massacrante da 3 mesi, non so bene quanto, finalmente ieri ha prodotto un risultato, non so se piccolo o grande, cioè che Berlusconi ha ammesso che anche lui racconta bugie. Ma veramente Berlusconi ha detto di non essere un santo, non ha detto. Vabbè, no, insomma, è più o meno come il caso di Clinton, che lui fin quando non è stato proprio smascherato ha negato il fatto. Vabbè, adesso non è... Ma ancora... questa è la sua versione, Daniele, questa è la sua versione. Berlusconi non è che ha detto fino adesso ho detto delle bugie e non sono un santo, non è proprio così. Va bene. E poi volevo invece chiedere come mai, nonostante una maggioranza numerica molto consistente, c'è questo grande ricorso al voto di fiducia, si creano degli emendamenti che, da quello che ho capito io, sono grandi quanto un decreto, no? Mi sembra che la critica di Fini fosse questa, e poi anche il fatto di cui nessuno... Io resterei, dopo devo dare la linea alla borsa, resterei su questa questione degli emendamenti e della difesa del lavoro parlamentare. Io è una polemica che non riesco a capire. è da anni che chiediamo alla politica maggiore velocità nelle decisioni, a prescindere dal governo, bianco, nero, rosso, giallo, centrosinistra, centrodestra. A un certo punto quelli che non ci stanno tirano fuori la storia della difesa delle prerogative del Parlamento, che di solito significa allungare i tempi, incursioni con gli emendamenti e tutte queste robe qui, che è evidente che rallentano il tutto. Riprendiamo con gli ascoltatori, naturalmente, che sono sempre il fulcro di questo programma, e andiamo in provincia di Firenze da Filippo. Buonasera. No, niente, volevo fare un intervento sul tema vino abuso, alcol abuso. Io ho scritto un paio di anni fa un libro che si chiama Tira Bouchot, è un vino a cartoni sul vino. Sì. L'idea era quella di, diciamo, un paio di bambini, uno di 5 e una di un anno. Il vino è sempre a tavola e quindi c'è sempre la domanda, la curiosità. È quello di colmare un po' il gap che c'è tra le generazioni. La mia vecchia, i miei genitori, i miei nonni si stava a tavola insieme di più di quanto si faccia oggi, e credo che oggi ci sia un passaggio un po' meno importante dell'educazione alimentare e culturale anche, no? Quindi l'alcol, in altre parole, è una sostanza velenosa, lo si capisce, io lo capivo quando ce ne davano un goccio una volta ogni tanto per fare un brindisi dentro un bicchierone d'acqua. E quando poi verso i 15-16 anni si poteva bere quelle invece due dita di vino, anche lì si capiva che era una sostanza da usare, diciamo, con attenzione. Dunque credo che oggi in l'Italia si sta avvicinando nel consumo dell'alcol di più al modo di consumare dei paesi nord europei. In altre parole, l'ubriachezza in nord Europa è accettata culturalmente, cioè se ci si fa vedere ubriachi nessuno dice niente, dal proprio capo al lavoro, mentre qui in Italia questo, almeno fino ad oggi, essere ubriachi è un segno di debolezza. Invece questo sta cambiando, e credo sta cambiando perché essenzialmente perché siano più pronti e disponibili delle bevande senza fare nomi, molto zuccherate, molto alcoliche, in qualunque bar si apre il frigo del bar e si prende la bevanda e no, questo sicuramente. Voglio chiedere una cosa, lei che è un amante del vino e ha scritto anche un libro su questo argomento. Ho notato un fenomeno in questi giorni che parliamo dell'ordinanza della Moratti, che è quello: tutti gli amanti del vino, chi lavora sul vino, è fortemente contrario a questo provvedimento. Perché, secondo lei? Io non sono contrario al, addirittura anche in etichetta, a spiegare alle persone che l'alcol è sostanza velenosa come molte altre sostanze. Addirittura lei metterebbe un'etichetta, rovinerebbe magari quelle bellissime etichette delle bottiglie di vino? No, Dio, non sono contrario alle azioni sociali che mettono in guardia le persone dall'abuso di sostanze potenzialmente molto pericolose. E allora però? Nel caso del vino credo che ci sia una differenza, cioè il vino è nato con la civiltà, per avere un goccio d'uva bisogna aspettare almeno da quando si pianta almeno 3-5 anni. Sì, da questo d'accordo, cosa c'entra con la vicenda della Moratti questa? No, c'entra con il fatto che probabilmente gli amanti di vino sono contrari alla limitazione del consumo, perché in un paese produttore come il nostro il vino fa parte del nostro DNA. Si sta parlando di una proibizione, tra virgolette, ai minori di anni 16, che è un'altra cosa. Esatto, io sono d'accordo con la proibizione dell'alcol ai minori, però credo che oltre alla proibizione, perché il rischio di proibire e basta è quello che gli inglesi chiamano il binge drinking, cioè quello di arrivare addirittura in America a 21 anni di età e avere una coda di persone che stanno aspettando di potersi ubriacare senza conoscere la sostanza. Se invece si educa i giovani. Ma questo è vero, ci vuole una grande informazione anche sul tipo di bevande, sul tipo di drink che si possono prendere. La ringrazio Filippo, andiamo a Bologna da Antonio, buonasera. Buonasera Cruciani. Prego. Complimenti. Io volevo intervenire anch'io su questa cosa dell'alcol, più che sull'alcol, sul decreto della Moratti. Sì. Sono veramente stranito, perché noi italiani dobbiamo sempre complicare tutto. Sì, è vero, non bisogna bere, però bisogna pensare che poi forse per quello, insomma dico, ma è così negativo far capire anche in maniera coercitiva a un ragazzino di 16 anni che ubriacarsi come un disgraziato non va bene? Cioè mi chiedo, è così, dobbiamo per forza fare le cose, poi pensarci, ripensarci, filosofeggiare, tirare fuori tutto i risvolti sociologici, intanto fuori continua ad andare tutto come sempre andato. Beh, ognuno guardi, Antonio, qui c'è una questione che abbiamo già sottolineato più volte. La Moratti diffonde dati che non so dove va a pescare. Il 34% secondo lei dei ragazzini di Milano, gli undicenni, hanno abusato di alcol. Francamente è un dato che non si trova da nessuna parte. Dunque, l'ordinanza, la decisione parte su dati che non mi sembrano molto fondati. E secondo, ma non è questione di regole, è, lo abbiamo detto più volte, l'efficacia di queste regole, no? Proviamoci, voglio dire, magari non va bene, dopo ci si ritorna su, ci si accorgerà che è stata una cosa inutile, per carità. Io non sono un fan della Moratti, per amore di Dio, non mi interessa molto neanche la politica, devo essere onesto. Però dico, perché subito partire con il voler per forza dire no, non va bene, dobbiamo cercare una cosa, cosa c'entra il vino poi con queste cose qui? Io dico che a me capita di salire delle volte sugli autobus di sera o andare in giro di sera, vedere questi ragazzini, sentirli parlare. Ma insomma, se qualcuno cerca anche in maniera un po' coercitiva di fargli capire due o tre cosine, è così sbagliato. Non lo so, Antonio, io ho molti dubbi, la ringrazio. Roberto, provincia di Modena, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Interventi più brevi, andiamo verso la conclusione. Dica. Guardi, io volevo parlare sempre riguardo a questo fatto delle norme per il divieto dell'alcol dei giovani. La mia esperienza diretta come titolare di pubblico esercizio ancora negli anni 80 è quella che la norma prevista che tanto si discute era già presente. E questo, cioè, l'abbiamo sottolineato. L'unica cosa che cambia, forse, se vogliono fare dei controlli, va bene, i controlli ben vengano, perché senza controlli nessuna norma poi ottiene l'effetto che si desidera. E poi la mia personale opinione è che sono scettico sul fatto che si possano ottenere dei risultati, in quanto paesi dove il divieto era già presente anche prima dell'Italia, ragazzi di età inferiore, dove io ho vissuto per alcuni anni in Inghilterra, ho visto che là la gente si ubriaca di più di noi e anche più giovane di noi. Bene, Roberto, la ringrazio. Gabriele da Verona, vediamo se ci sono altri argomenti tirati in ballo dagli ascoltatori. Gli ultimi tre, avete sentito, sono tutti sulla vicenda dell'alcol. Gabriele, prego. Buongiorno, o meglio, buonasera, signor Cruciani. Io sono da Verona e faccio parte dell'ACAMA, che è una settoriale della Federazione Italiana della Caccia che si occupa di acquacci. Lei prima aveva menzionato il manifesto che la Federazione aveva fatto recentemente, diciamo. Sì, ieri, sì. Esatto, in cui lei sosteneva che c'era la foto di un ragazzino con un fucile in mano. Io ho già precisato durante la trasmissione di ieri che il ragazzino non ha in mano il fucile, ma il fucile accanto. Di fianco, diciamo, sì, di fianco, ma no, sì. Fischio per anatra. Io non l'avevo sentito questa seconda parte, volevo un po' così puntualizzare questo e dire che sostanzialmente è un manifesto interno destinato al tesseramento e che è una semplice evocazione, diciamo, del rinnovo. Dunque, nessuno scandalo, secondo lei? Ma guardi, certamente non è un invito all'utilizzo delle armi, non è un'enfatizzazione dei minori alla caccia, è semplicemente un richiamo alla freschezza, secondo noi, all'entusiasmo giovanile nel coltivare le proprie passioni, anche perché oggi credo che uno che voglia diventare cacciatore in Italia deve avere un po' un'incoscienza da adolescente per poter resistere, per cui non credo che questo fosse il messaggio che si voleva far passare. No, ma a prescindere dal messaggio che si vuole far passare, secondo me non è una scelta azzeccata. Ci possono essere tante scelte interne anche alla Federcaccia, quella di mettere un ragazzino, un bambino con un fucile accanto, secondo me non è la migliore. La ringrazio. Umberto da Parma. Umberto, buonasera ancora. Buonasera, dottore. Dica. Grazie per l'ospitalità, sarò molto breve. Volevo soffermarmi un attimo sulla vicenda di Pietro. Il nostro signor onorevole Di Pietro non deve avere paura della democrazia qui in Italia, che secondo lui si va così pian piano scemando, anzi deve essere molto tranquillo, perché è una democrazia ben salda, perché il signor Di Pietro non sarebbe se non andato davanti al Quirinale a fare i sit-in e nel medesimo tempo apostrofando il nostro capo dello Stato a codardia per non essere intervenuto nei vari decreti legge. Ecco, tutto qui volevo dire questo. La ringrazio, Umberto. Pietro da Milano, buonasera. Eccomi. Allora, ancora su quella cosa del santo, del non sono un santo, niente, volevo solo rilevare che per me è quasi una rivoluzione culturale contro l'ipocrisia questa dichiarazione. Addirittura. E io penso che bisogna un po' riflettere su quella storia lì dei vizi privati e pubbliche virtù, oppure su predicare bene e razzolare male, che viene indicata come una contraddizione, mentre invece la realtà, nel senso che siamo così, noi siamo così, non l'abbiamo mai detto, siamo così a livello individuale ma anche a livello sociale, nel senso che le nostre società da un lato conservano le sue istituzioni, le loro istituzioni, i loro valori, e dall'altro all'interno hanno delle forze di cambiamento che li contraddicono. Sì, però Pietro, mi scusi, non è che la filosofia di predicare bene e razionare male sia poi da apprezzarla e da farla diventare come un pregio assoluto del nostro paese, mi perdoni. Però devo concludere, allora andiamo a Francesco che ci chiama da Torino. Davvero breve, Francesco, dica. Sì, buonasera. Guardi, io semplicemente premetto una cosa, non mi interessa di politica, quindi non sono fazioso né dalla destra né dalla parte sinistra. E Francesco, lei deve essere molto breve, un flash perché davvero siamo in conclusione. Sì. L'unica cosa, ecco, che volevo dire è che il fatto di Berlusconi e di queste storie con la Daddario dell'Escort, sì, lascia un po' a desiderare, un po' per la figura di Berlusconi, più che altro perché lui ha dato molto facendo pensare al ruolo della famiglia, che era importante, e poi si è presentato porta a porta dicendo delle menzogne, quindi ecco. Va bene, insomma, Francesco, però queste cose le abbiamo già ascoltate, dette, ridette, commentate più volte nei giorni passati. Se non ha nulla di nuovo da aggiungere, come mi sembra, io la congedo anche per motivi di tempo e ci sentiamo con tutti voi lunedì 18:30 alla Zanzara. Ciao.